Sì. El Z, la N e la doppia S. Il beneficio degli umani. E va così. Chi fa del bene riceverà del bene, mi hanno detto. Fiducioso sono qui che aspetto. Tra luce ed ombre si nascondono le verità. Il bianco e il nero non sempre mostrano la realtà. La verità, apri gli occhi e dagli sfumature. Dare sfumatura aiuta a distinguere le vie di mezzo. Il bene è gratis, ma tutto il male ha un prezzo. Non ci sarebbe il bene senza il male e viceversa. Come non c'è futuro se la speranza è persa. In ogni cosa nasce il seme del suo opposto, che germoglia e si trasforma. Io l'ho visto, tutto passa attraverso le emozioni. Sta a noi controllarle e darle giuste direzioni. Come l'amore che provavi, more e odio. Respira lentamente, a tutto c'è un rimedio. Se il male è dentro noi per molti è fanatismo. Per fermarlo non ti serve un esorcismo. Ma se hai venduto l'anima e ti resta solo la carcassa, usa queste rime come armi di distrazione di massa. Distrazione di massa. Come lo yin e lo yang, tutti opposto. Il freddo di dicembre, il caldo di agosto. La luce del giorno, il buio della notte. Chi muore in vita, chi vive dopo la morte. La luna dell'estate, il sole dell'inverno. I demoni in paradiso, gli angeli all'inferno. Il bianco e il nero, chi scende e chi sale. Il buono e il cattivo. Cosa è bene, cosa è male, chi può dirlo? Non sei un animale, conta fino a 10, puoi domarlo. Resta calmo, non far partire l'embolo. Un bacio sulla guancia, tradita anche un apostolo. Basta una cazzata e ti ritrovi sul patibolo. Oggi se non sei un politico, ci vuole poco a prendere l'ergastolo. Quindi rifletti e prenditi il tuo tempo. Basta aspettare, per tutto c'è il suo tempo. C'è un tempo per ridere, uno per soffrire. Un tempo per nascere, uno per morire. Uno per uccidere, uno per guarire. Uno per demolire, uno per costruire. Un tempo per piantare, uno per sradicare. Un tempo per amare, uno per odiare. Un tempo per sognare, uno per cambiare. Un tempo per il bene, uno per il male. Come lo yin e lo yang, tutti opposto. Il freddo di dicembre, il caldo di agosto. La luce del giorno, il buio della notte. Chi muore in vita, chi vive dopo la morte. La luna dell'estate, il sole dell'inverno. I demoni in paradiso, gli angeli all'inferno. Il bianco e il nero, chi scende e chi sale. Il buono e il cattivo, il bene e il male. Io volevo a tutti i costi crescere, combattere col bene, l'ignoto e vincere. Dividevo il bene e le sue arti, allontanavo il male dalle controparti. Ero una bambina e sognavo la libertà, non quella degli schiavi ma l'essenza della dignità. Sapevo ridere ma non riflettere, note bianche troppo ingeme nell'etere. Oggi la sfida primaria è mantenere il confine, usare il bene senza il male raggiungendo il fine. Difficile scindere se il mezzo è unico a servire. Non c'è bene, non c'è male, voglio solo l'avvenire. Oggi sono egoista, colpa del mondo che mi ha tolto il mio essere altruista. Vivo per il bene, usando il male. Questa è l'antitesi della coscienza universale. Come lo yin e lo yang, tutti opposto. Il freddo di dicembre, il caldo di agosto. La luce del giorno, il buio della notte. Chi muore in vita, chi vive dopo la morte. La luna dell'estate, il sole dell'inverno. I demoni in paradiso, gli angeli all'inferno. Il bianco e il nero, chi scende e chi sale. Il buono e il cattivo, il bene e il male. Come lo yin e lo yang, tutti opposto. Il freddo di dicembre, il caldo di agosto. La luce del giorno, il buio della notte. Chi muore in vita, chi vive dopo la morte. La luna dell'estate, il sole dell'inverno. I demoni in paradiso, gli angeli all'inferno. Il bianco e il nero, chi scende e chi sale. Il buono e il cattivo, il bene e il male. Veniamo al mondo col peccato originale. Qualcuno è contraffatto, ma è un caso eccezionale. Tentati di continuo da un fottuto animale. E non ci indurre in tentazioni, ma liberaci dal male. Ma liberaci dal male.